Cicco 10. Provola. Test. Cazzo di merda. Sì, Gianfra, ti volevo dire una cosa sul microfono, poi vabbè. Volevo chiedere quell'apparatino PNI famoso, quello piccolo. Comunque quando arriva devi solo configurare la banda dove utilizzarlo, tipo UK, Polonia, Italia, presumo, no? Non devi alterare roba dentro. No, in linea di massima no. Tu metti, dato che è europeo, spesso lo metti di Polonia, credo che sia la media. Aspetta che lo accendo, così dopo che uscire dov'è, così si quella che c'è la migliore. Io ho D5, sembrerebbe, D5, non so cosa sia, però è quella che c'ha tutti 40 canali e in più c'è la possibilità di scelta tra alto e basso, no? Perché se così in basso è da pochi watt, io ne ho due appena, mentre in alto sarà 5, sì. Eia. Sì, no, perché c'era un conoscente che invece voleva metterlo in camper, una cosa che uscisse bene di radio, insomma, che fosse piccola ma non mediocre come il Polmar di cui gli avevo parlato. E lì praticamente, una volta che esce bene di radio, al limite la deviazione FM che non userà si può aumentare leggermente, di un'inizia, visto che li fanno stretti. Per il resto era già pronto all'uso, diciamo, dai. E poi mi confermi comunque che aveva il trimmer per la M, no? Dovevano essere tre trimmer vicini, uno era serigrafato AM Mod, una cosa del genere. Sì, c'è tutto scritto. Allora, una volta che tu lo apri, lo qui, molto semplice, vi dico, sono tutte piccole ovviamente, perché il coperchio è altrettanto piccolo. Tu lo apri e vedrai, uno in alto e l'altro un pochino più in basso, che è quello dell'FM, perché ho separato, sono super accessibili, l'unico difetto è che sono microscopici, deve stare attento, possibilmente provarlo. Da quello che mi avevi detto tu quando avevo fatto le regolazioni, ricordi che avevamo provato, mi sembrava anche invertiti, nel senso che a proprio girare nel senso orario, per aumentare come sarebbe logico, si deve girare in senso antiorario, quindi hanno invertito, diciamo, la polarità, dai, chiamiamole così, di abbassamento di aumento. Capito? Poi niente, ti ripeto, io rimango un po' meravigliato a questo tipo di quell'apparecchio, perché è piccolissimo e c'è una resa anche in ricezione, in qualità, che lascia un po' perplesso, non me l'aspettavo. Sì, poi in FM hanno una bella ricezione, una bella trasmissione anche discreta, diciamo. È così, dai, per quel prezzo stanno spopolando, perché lo fanno col nome Millennium, lo fanno col nome PNI, lo fanno col nome o Stabo o Albrecht o Maas o tutti e tre, più altri nomi dell'est che adesso non mi ricordo, nomi strani, tutti cloni, capito? Tutti cloni di quello lì, che poi è la versione V3, perché c'è stata la versione 1, la versione 2 e la versione 3, la 3 è l'ultima, quella che viene venduta adesso, per 49,99 quant'è? O 49 euro che sia, da poi lo sai che Amazon non fa problemi, no? Se dovesse arrivare già malfunzionante, fa il reso, non dovrebbero esserci problemi. Interrogativo, sulle viti, su quelle mini viti Storx che ha sotto, c'erano dei sigilli di garanzia? Aspetta, perché ho fatto tante di queste cose in questi giorni, adesso non me la ricordo più. Mattino e Vardo, ti confermo che è un pochino, diciamo, un adesivo, molto adesivo, quindi non si sognare di togliere dove rimetterlo perché si rompe, e io l'ho rotto, ovviamente l'ho rotto per fare l'operazione. Tanto non è che, insomma, stanno per io, per avere qualche prestazione si può più fare. Tu al limite, quando ti mandano l'apparecchio, a posto di montare il servizio, prova prima a regolare, a regolarlo dal coso, dal programma, in modo che può impostare, e quello te lo fa fare dalla tastiera, la parte che ti ho detto, come un 40 canali, MSN, e due, oppure dove sono due, sono 4 vasi, sono 6-7. Se vedi che va bene così, chiedi per la garanzia, lascialo così, non c'è problema, perché ovviamente se questo è possibile si possono dire cosa, probabilmente non so cosa sarebbe manomesso con i nostri garanzia. Ripeto, a me non me ne spiegava niente perché era talmente ben spiegata la cosa, perché non va più sicuro. Quindi non posso anche permettersi di rischiare. Però se si vuole stare tranquillo, almeno per un paio di giorni, quindi se non com'è, se uno non sa la tentazione, è micidiale. Ma io credo che tanto mi, se in MS già decentemente, tanto mi, questo lo deve usare sul camper, e lì fanno comunicazioni all'interno dei campeggi, oppure se vanno in colonna, cioè comunicazioni proprio sporadiche, questo non è CB nemmeno, cioè non gliene frega di entrare in 27 come magari facciamo noi, quindi credo che anche come esce dalla fabbrica così nature li vada bene. Ok, ma poi ti volevo dire, di quel President, ti ricordi che avevo regolato appena la modulazione? No, ho fatto una scoperta su YouTube. Allora, praticamente, quel microfono di serie è a condensatore, no? Ah, la capsula a condensatore, però non ha sbocco con l'esterno, cioè quella leggera feritoia che avrà... La feritoia centrale del microfono in realtà non corrisponde alla capsula, la capsula è montata di lato in una sede circolare, però davanti c'è la plastica, cioè la capsula è chiusa nella plastica, è inserita in una sede, però non comunica con l'esterno. Infatti qualcuno ha detto si può provare a muoverla se c'è abbastanza cavettino e farla affacciare in sede capsula, perché lì quel microfono è identico, lo fanno sia con capsula condensatore e sia con capsula dinamica. Quindi essendo condensatore il vano della capsula è lasciato vuoto lì. E sicuramente aumenta di parecchio, non c'è bisogno nemmeno di stare a trimmerare e roba del genere. Qualcuno ha detto di fare un foro sul microfono in corrispondenza della capsula, però non... No, rovinare il mic originale. Ah, ascolta, tu avevi chiesto, si troverà il microfono di ricambio di quel PNI? Sì, si trova su eBay, venduto da Amazon, 9,99 €. Sì, allora, dunque, ti rispondo, io l'ho aperto quel microfono, giusto per vedere un po' come era fatto. Quello che ha detto non l'ho notato, nel senso non c'ha microfoni condensatori posizionati in maniera trasversale, un buco grande trasversale, no. Questo c'ha un inserto in gomma della grandezza proprio di una capsula dinamica, che è bucato al centro, addirittura anche tappato, in cui dentro c'è la capsula dinamica, quindi ovviamente anche questa procedura sembrava molto la traguattata, perché veramente la capsula non sa poco. Quindi io l'ho fatto, posso stare lì a rompere, a tagliare il gomino, non ho fatto altro che capovolgerlo, cioè ho messo la parte di entrata, le ho fatto un piccolo varco per il filo e adesso la capsula effettivamente è rivolta verso l'esterno, ecco, quindi verso la bocca dell'operatore. Non so perché abbiamo adottato una soluzione così pasticciata, però comunque avevo detto che un po' ho aumentato. Sì, avevo aumentato, solo che non... Naturalmente io ti sto parlando del presidente che c'ha la capsula chiusa, senza sbocco. Eppure esce già limpido, ho sentito anche la registrazione che avevi fatto e la modulazione limpida, cosa essenziale per me. Perché se tu hai notato, quando entra qualcuno a chiedere un controllo, magari gente che frequenta poco, chiede sempre un controllo di segnale, mai nessuno che chieda, di quelli che entrano rarissimamente, che chieda com'è la modulazione, è chiara e limpida, no, sempre quello che conta il segnale. Ma poi un retaggio un po' umano, perché da ragazzini, un retaggio da ragazzini, dove così una volta succedeva che c'era più lungo e quindi è rimasta questa cosa psicologica, che più lungo ce l'hai o più forte sei e meglio è. Purtroppo non è sentito così, perché spesso più potente esce meno radio crea. Eia. Bene, allora per la cronaca io adesso sto utilizzando il CRT 7009 e basta, anche questo ha un orrendo RG qualcosa, forse 45, forse quello che mi hai detto tu, e quindi mi tengo il mic originale a condensatore, dovrebbe essere a condensatore 99%, sì, esce discretamente. Che te devo dire? Niente devi dire, anzi, aspetti 2 secondi, il tempo di commutare, si batti e si giri tutto. Commuta. E quindi mi tengo il mic originale a condensatore, dovrebbe essere a condensatore 99%, sì. Esce discretamente, che te devo dire? Bello, conta che sto parlando a 3 dita dal mic, un po' di sbieco, 3 dita, beh, così sono attaccato, ma peggiorerà. 3 dita dal mic, così sono 20 centimetri, vabbè, questo è abbastanza. No, la modulazione da timbrica dell'apparecchio va bene, e la voce da pirla è che non va bene, capito? La mia voce è da pirla, sembro troppo Gigio, sembro. Aspetta, stai sbagliando la prassi? Sì, guarda, la prassi è molto semplice. Il fatto è che se cerchi ad apparare, se cerchi a prassi, se non inserisci l'uscita posteriore d'acqua, non va in trasmissione la voce o viceversa. Questo l'ho voluto per aumentare la qualità del dato che ti viene inviato, perché se no altre non funziona il microfono e i dati, e quindi la registrazione, il segnale RC, e quindi sarebbe una cosa abbastanza porca, perché magari tu stai parlando e senti sia la tua registrazione che la mia voce, e magari sta facendo più tardi, tutto lì è il problema. E quindi bisogna ricordarsi. Adesso ho fatto proprio questo colorino che lui, non mi ricordo mai il nome, che è questo colore, e vediamo un po', sicuramente il segnale sarà molto ma molto più forte di questo, perché sono abituato, non so neanche dove sentire per difficoltà lì, perché praticamente lo strumento non va segnato. Passo sull'altro. e ribadisco, così sei Santiago 9. Vai. Come radio, come ti sembra? Troppo forte, troppo debole? No, troppo forte no, anzi ti dirò, ho dovuto alzare il volume, ho alzato abbastanza il volume e tu sei molto tranquillo come modulazione, però niente da dire, chiara come sempre potrei dire. La voce anche la mia è nasale, quindi è mezzo, un mezzo mal di gola. Non so che sia una bella radio dal punto di vista di voce, non posso fare il presentatore, però insomma l'importante è che sia fedele, sentire questa massa di vento, ma non la capisco perché ogni tanto mi sta costando. E niente, infatti un altro figlio di quello di Colino è che non sa più di poi ti faccio sentire l'altro, che proprio il vento va in nome A, pur essendo molto più potente, mi dici come la radio, però prima provo il piccolino. Ehi, proviamo, dai, sono in ascolto. Ecco, vediamo un po'. Prova, 1, 2, 3, ci sono? Sì, allora sei passato da 9 a 9+20, allora questo è a LED, non so se è presente questo apparato, di fondo scala è il 9+60, dubito che comunque lo segnerà mai, 9+20 sì, tendente al 9+25, perché ancora, sai così, avrei dovuto avere un 140 per fare il confronto tra i due smitter, diciamo che secondo me è generoso, perché oddio, magari è giusto questo mio, è cieco quello del 3009 in realtà, quindi 9+20 abbondante diciamo a questo smitter. L'unica cosa che ho notato è che c'è un leggero ritardo nello scatto della portante, cioè non è istantaneo, è un po' tranquillone, dai, prima di poter segnare alzare il campo. Mentre invece la radio questa rispetto a quella là che è, come dire, un microfono da tavolo, tutte quelle belle cose lì, come ti sembra? Allora, ha più bassi, decisamente più bassi, però forse un tantino meno limpida, ma tu gli hai regalato qualche watt in più? Forse sì, forse no, sì, di watt ne ha sicuramente più di quello che stavo usando prima, però mi insegna rispetto all'altro anche il picco, nonostante quello là sia amplificato, questo dà un picco diciamo da 3 watt a 6 quasi, non ho capito il perché, quindi provo a allontanarlo, ecco, vedi così se mi senti ancora, vedo che il picco c'è, e niente, vedi un po'. Sì, ti sento. Allora, quell'apparecchio, molti sono lamentati che come esce di fabbrica non dà nemmeno 4 watt, di solito ne dà 3, 3,5, e quindi le soluzioni sono due, chi vuole i 4 watt giusti o gli aumenta appena la potenza tramite trimmer, oppure muove quei due jumper, op 1 e op 2, opt, vabbè, quei due jumper li mette disposto appena a destra e raddoppia la potenza, che ne so, se te ne dà 3 passa a 6 watt, se te ne dà, che ne so, 3,5, bene o male la raddoppia, dai, in teoria dovrebbe essere 8 watt la modifica, a qualcuno gli è arrivato anche a 10 watt con quella modifica, solo che si sono lamentati molto che scalda terribilmente, già scalda con 4 watt a lungo andare, no? Quando inizia a fare botta risposta, con 8 watt non ne parliamo, cioè poi troppo piccolo, troppo sacrificato, ma se ne dà già 3 di fabbrica io lo terrei così, cioè dove non lo prendere, se cosa che però se no qua cominciamo a fare la montagnetta, capito, di apparati. Via. Cosa te le volevo dire? Hai trovato dentro il mic spugne, spugnettine più o meno compresse, oppure era abbastanza libero? O il feltrino sottile hai trovato? No, dunque, guarda, ho trovato, te lo stavo dicendo prima, questo tappo, questo è un tappo in gomma, che ho dovuto capovolgere perché, come era fatto da loro, tendeva a coprire il microfono. Io non ho fatto altro che invertirlo in modo che la capsula avesse libero accesso alla parte esterna, diciamo così, rivolto verso l'esterno, verso la grassa, e non una capsula praticamente che ci aveva un tappo in bocca. Quindi ho invertito questa specie di coperchio e ci hanno messo, perché sicuramente prima c'era qualcosa, una capsula di dinamica più grande. Perché il buco è tipico, il contenitore è tipico di un coso lì, di un dinamico, e siccome qua c'era un microfono a condensatore, l'hanno praticamente fatto questo tap che contiene il microfono, questo condensatore, no? Questo microfono a condensatore, che però risulta tappato. Capito? Già c'è il suo filtrino naturale, tu ci metti un tappo uguale in gomma o comunque in gomma a piuma, fate il conto, cosa non c'è pure. Via, quindi solo questo tappo un po' strano, dai. Comunque si può migliorare la situazione, appunto, capovolgendolo, buono sapersi. Buono sapersi. Comunque io non riesco a capire in queste macchine moderne come la gente non trovi posto. Sai cos'è? Diciamo che chi ha la macchina nuova non vuole bucare, sai, il lato passeggero sotto il cassettino, no, non vuole fare i fori per le viti per agganciare la staffa. Cioè, con la macchina nuova non lo farei nemmeno io assolutamente. È che quella macchina c'ha 20 anni. Noi, vabbè, noi ce l'abbiamo da 10, ne aveva già 10 alle spalle, lì ci ho fatto vari fori in modo da adattare le varie staffe. Lo aggancio lì, comodissima come posizione. Che dire? Sì, comunque toni bassi, ripeto, magari sono troppo fissato io, diciamo che è meno cristallina magari delle radio professionali che usi di solito, ma è un'inezia, capito? È un'inezia, che ne so, anziché 10 le do 9, ecco, è un'inezia, magari può darsi che con altre radio non mi accorga nemmeno della differenza, a parte i toni bassi. Sì, però adesso pensa solo alla differenza, se vogliamo metterla dal punto di vista economica, 550 euro sono ben differenti da 1000 piccioli o no? Beh, vorrei vedere. C'è gente che si è trovata molto bene con quell'apparecchietto comunque. Dice, se avesse l'SSB, tu immagini un apparino così piccolo, MFMSB, proprio cose base, solo il clarifier senza menate, dice sarebbe la radio per la vita, qualcuno ha detto, non esageriamo, dai. Però chi lo sa. Comunque il più piccolo di apparecchini con l'SSB è tipo quel McKinley, quello è meno largo del 3009. Come altezza perde qualcosa, in profondità perde molto molto molto, è molto corto come apparecchio, c'è una schedina che, caspita, credo che sia uno dei più piccoli apparati con l'SSB quello, poi c'è tutto, ecco, talkback, tante cose, il Vox, ho provato il Vox, funziona anche col mic originale, cioè non devi mettere, volendo puoi mettere il microfonino con la clip, c'è uno spinotto dietro, micro, un jack da 2.5, però anche col mic originale, vabbè, devi avvicinartelo sempre un po' alla bocca, inizia a modulare e lui trasmette, basta che lasci un secondo e mezzo di bianco e stacca la portante, carina come funziona. Bisognerebbe trovare un microfonino a condensatore con un po' di cavettino che abbia il jack da 2.5 o comunque farselo, cioè due saldature sono e una fesseria. Chi abbia però la clip metallica per il colletto, tipo tipo roba da computer, che ne so, tipo i baobao, già si trova qualcosa, dai. Sì, ma quello tutto con i microfoni a condensatore non esiste quasi il problema, sono anche facilmente e ulteriormente amplificabili, anche se di norma i circuiti in cui salgono anche a 20-30 volte di guadagno, capito? Quindi bisogna stare attenti, perché poi alla fine la radio solamente è forte che risposta. Mentre il discorso delle maschere, purtroppo, dico purtroppo perché ci sono dovuto passare e ho dovuto fare delle scelte, tutte le macchine nuove, ma tutte, i lavori che facevi prima su quelle datate tipo la tua, non li puoi più fare se non sei abbastanza, come dire, coraggioso e incosciente da farli, ecco. E anche un elettrauto penso che si possa fare a cuor leggero. Ti faccio un esempio, io avevo non una ma due radio, già una non ci salva, perché le planche sono tutte fatte alla membro di Segugio, ecco, sono. Cioè no, non c'è spazio, c'è portaoggetti, si mettono il portabottiglie, il portabicchiere, dopodiché tante fesserie. Ti dico una cosa, già nelle maggior parte delle auto avresti già problemi a comprarti un'altra radio nuova, cioè a togliere quella originale e a mettere quella che a te piace, perché non è detto che a tutti piacciono le radio che mettono. Quindi di lì io l'ho fatto già, mi ha rotto le scatole quest'altra radio che mettevano, o meglio che mettono, e c'ha 3.000 proibizioni. Ogni tanto accendi la radio, attenzione però, ricordati che ti potresti troncare l'osso del collo se guardi lo schermo, e vabbè, non me lo mettere al solo schermo. Poi 3.000 allarmi, attenzione, non puoi guardare il GPS, e se lo guardi c'è un cavolo di tuo, io te l'ho detto, mica ti sbatti, inizia a diventare un incubo. Poi guarda, con la connessione è l'unica cosa che c'è, connettiti, non sono connesso, dove c'è il telefonino, connettilo, alla fine guarda, mi stava prendendo un mezzo esaurimento, no, stracciata, tiene presente che è una radio che ti fanno pagare credo un migliaio di euro, è una cosa folle che non so che vale neanche un terzo, e ci ho dovuto mettere la classica radio buona però cinese che mi fa tutto per la camera di davanti, di dietro, volendo laterale, tutto quello che voglio senza starmi lì a stressare, attento, ricordati che devi morire, finché ti sbatti a qualcuno, e cose del genere. Per le radio che ho dovuto mettere, peggio che mai, ho dovuto rinunciare al cassettino, c'era un cassettino enorme, gigantesco, che prendeva quasi tutto il posto del passeggero, che non lo potevi neanche aprire perché avevo toccato le gambe, però poi dentro in realtà di cassettino ci stava a malapena il libricino delle istruzioni, quindi era tutto corona di contorno, la cornice di contorno e niente sostanza. Me l'ho attaccato, ho modificato tutto e ci ho buttato dentro lì due radio, altro non potevo fare. Tu dirai, ma l'auto nuova, una cagata, vabbè, sarà pure una cagata, però ce l'ho messo, la faccia di loro, così si impara. Figa, ascolta, caspita, dovevamo stare un minutino, ma tanto lì già si è formata ruota, già non rimangono soli sul 23. Ti volevo dire, non è che me lo fai risentire in FM con questo apparato, per vedere se migliora rispetto alla M con questo ricevitore qua. Sì, aspetta che però prima devo fare un esperimento, in realtà un accorgimento, voglio fare una prova, vediamo un po' se mi riesce, senza neanche trasmettere. Mm. sull'altra, eccoci qua, sono qui. Sì, sì, sì, adesso sei circa 9. Ripeto, siccome le tacchettine sono a filo del 9, ma non sul 9, non so quanto sia generoso, facciamo 9, a meno che rimani così un attimo, Gianfra, non tocchi, fermati, un attimino e controllo. Devo stare attento a non sbagliare, mica, se no brucio tutto. Ma non è questo il mio curiosità, no? Hai toccato qualcosa, come tipo 9? No, non ho toccato niente. Sto dicendo solo che qual è il microfono, quindi tu quando registrare? Quando registrare? No, aspetta, comunque qua già non tornano i conti. Caspita, segnale, lì segnava 9, qua sei 9 più 5, tendente a 9 più 10, col 3009, però a chi dare ragione? Boh. Non lo so. Questo poi quando lo dici più ma io non devo fare prove di trasmissione, Gianfra. No, volevo sentire solo quel PNI in FM con quell'altro apparato. Sentirlo io a orecchio, come esci tu, me. Ah, io avevo capito che tu stavi collegando un altro apparecchio. Allora, qua passiamo in FM, così. Marco, vuoi che passiamo in FM? Già, ho azzeccato, sì. Mamma mia, devo stare attento quando cambio apparato. Ma questo è il PNI però. No, non è il PNI. Vediamo i watt. Potrei lasciarli così, dai. Tanto, siamo sempre qua. Saranno 5, presumo. Sì, adesso devo capire, questa è la presa memoria, vediamo un po', sì, sono arrivato. Allora, guardate questa radio, adesso non si dovrebbe neanche sentire, che sto commentando, no, sì, no, non esiste questo, non lo so, va benissimo. Allora, adesso basta pazienza, passo sull'altro apparecchio, mettiamo sull'altro. Ok, vediamo, ampere, circa 4 ampere. Ci sei, Gianfranco? Che stavo sbagliato, sperando che stia funzionando, mi senti? Sei Santiago 8, modulazione più forte. Sì, io sono con un'altra antenna. Aspetta che abbasso questo, perché mi sono ricordato che di qua c'è il commutatore per le teste, e quindi insomma non può andare con la, a meno che non cambi la fase, ma ho dimenticato, sto impazzendo. Ok, va bene, quindi questo qua è più potente indubbiamente, e la radio è più forte. Sì, sì, più forte, più tutto. Quindi a parità di radio buona, fai da una 10. Con la là, però se ti porta anche se si muove sia meno tranquilla. No, tranquillo, guarda, ho dovuto alzare il volume abbastanza. Diciamo per sentirti bene, perché c'era un po' di corrente elettrico, però questa è decisamente più forte come volume, chiara, sempre. Dalle il voto, dama 10. 10, 10. Forse tra le due, siccome tu parli sempre molto pacato, forse la preferisco un po' più forte, così non devo alzare troppo il volume, capito? C'è il rapporto tra il correme che si è formato un po' per la pioggia e la modulazione tua è migliore. Sì, è quella lì, l'altra quanto era? Che ne so, 9, 8 come volume? È difficile, però io non sono bravo a dare i voti. Che dire, 8 fai, 8, 2 punti in meno. Guarda, adesso sono con l'altra. Quanto difficile avere la 60 metri, poi che guarda un po' di po' principiale, con l'antenna non possiamo far reggere ancora la via. Ecco, sono passato sull'altra radio, quindi mi confermi che è più bassa. Sì, c'hai appena mezzo Santiago in più di segnale, 8,5 contro 8, quella è più forte. Diciamo, se dovessi, questa è più la modulazione tua tipica, l'altra è più forte ma non troppo, sempre però con limiti accettabilissimi, non siamo nemmeno lontanamente a livelli di Alan 48 Colt, triplo modulatore, eccetera. No, è sempre comunque abbastanza contenuta, abbastanza fedele, no, abbastanza, molto fedele, eccetera. Sì, vediamo un po', faccio la possibilità di aumentare, sto salendo un po', ecco, guarda se così è notato qualcosa oppure se va ugualmente bene. Sì, forse qualcosina in più, però sempre ugualmente bene, cioè tu come esci sempre bene esci, capito? Con vari apparati, e diciamo è abbastanza costante la tua qualità di modulazione, dai. Ecco, adesso ho portato, magari sono alla pausa e andando così basso, 3 watt esatti, vediamo se è successo qualcosa, ma penso di no. Come questi sono microfoni della stessa marca, identici, proprio per non sbagliare, però poi, come dire, bisogna sempre vedere le regolazioni, capito, da un apparecchio all'altro. Ripeto, adesso ho aumentato un po', siamo all'incirca 3 watt, non so se abbia influito qualcosa. Sì, 9 più 10, adesso 9 più 10, è migliorato il segnale, peraltro il correme elettrico si è un po' smorzato, è stato un attimo perché quando ho fatto proprio la pioggia forte, qua si è sentito proprio quel suono tremendo tipico. E meno male che queste 5 ottavi sono cortocircuitate, se no uscivano anche le scintille dal PL. Quando le vedi, quando non le vedi che è collegato al baracchino, se la deve servire il baracchino, lo schiocco, tac. Infatti, ti volevo dire, ma ha guadagnato qualche cosa come radio, perché ho aumentato un pochino il market gain. Sì, anche da prima, anche prima di alzare il watt un po' guadagnato. Diciamo adesso che, siccome è aumentato anche il segnale proporzionalmente, è migliorato ulteriormente la modulazione, diciamo. Ho dato anche un'alzatina al microfono, cioè perché essendo da tavolo c'è la regolazione che normalmente di default tengo sempre molto bassa. Non so se sia successo qualche cosa. Eccellente, molto molto bella. Se potessi registrare a circuito chiuso e rimandartela te la farei sentire, ma non si può, il cellulare distorce troppo, tutto. Dunque, molto molto bella quella funzione di poter registrare proprio, già hai capito, dai, non mi so spiegare, è un circuito chiuso, non lo vuoi chiamare, no? Sì, è un sistema particolare che serve vari sistemi, ecco, sottosistemi, eccetera, insomma una cosa un po' complicata, però non c'ha microfoni, non è il tipico microfono che avvicini all'altoparlante, che già distorce. Questo va dalla radio direttamente sul computer, che c'è un semplice programma estremamente efficace, che agisce anche con lo Quest, tra l'altro, che si chiama Audacity, che è un eccellente programma, non ha mai scaduto, è proprio a livello professionale. E ti fa tutte le registrazioni che vuoi.